kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. Io sono il sergente maggiore Ganni e scrivo per la rivista Ring. Da questo momento non leggerete nessun altro periodico videoludico. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire da quelle vostre fogne sarà signore. Avete capito bene, Verbi? Signore. Ma che cazzo, non vi sento! Urlate come se l'aveste davvero! Signore! Cazzo, non vi sento ancora! Signore! Se voi ignoranti e senza Dio riuscirete mai a finire un nostro indact, se anche solo arriverete alla fine di un versus, scriverete per la rivista, sarete dei geni, userete parole come cronotopo, semantica, tonitruante e dicotomico! Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di videogiocatore che esista al globo! Non siete neanche dei fottuti esseri umani! Sarete solamente un branco di casual gamer succhiacazzi, di quelli che il vero mondo dei videogiocatori deride ogni santissimo giorno! Dato che scrivo strano non mi aspetto che capiate, ma meno capirete più vi prostrerete! Io sono un duro però sono giusto, qui non si fanno distinzioni razziali! Qui si rispetta gentaglia come PCisti, Xboxari, Segaioli, Nintendari! Qui in vigio l'uguaglianza non regaliamo voti a nessuno! E dato che i PR non ci cagano, non li vendiamo neanche! Mi sentite sacchi di merda? O state leggendo l'ultimo numero di videogiochi? Che cos'è videogiochi? Come ti chiami, faccia di merda? Signore, soldato Gazzo, signore! Ma lei tutt'ora in poi sarà il soldato Poser! Ti piace questo tuo nuovo nome, vero? Signor, sì, signore! E Gazzo che vorrebbe significare? Hai distorto la parola cazzo quanto bastava per farmi credere che tu non mi stessi dando della testa di cazzo? Ma io? Subito lo sacco di merda, quasi ce la facevi aggabbarmi! Ho detto quasi! Subito a terra, fammene 35! Uno. Due. E una volta che ti sei rialzato, affilla immediatamente all'accettazione a farti tagliare quei capelli ributtanti! Sette. Otto. E tu invece come ti chiami? Signore, soldato a mano, signore! È il senso che te le fai a mano, sacco di merda? Signore! Oh, sei indeciso! Quindi ultimamente è stato qualcun altro a fartela le seghe, eh? Signore, veramente! Decidi, soldato a mano! Sei un segaiolo, sei un fracio! Signore, il soldato a mano si chiama così perché non è capace di fare i quote nella mailing list della redazione e quindi preferisce scrivere a mano, signore! Mi sento sollevato! Meglio un analfabeta informatico di ritorno che un senza Dio pervertito! Quindi tu sei qui per uccidere! Sì, signore! La rete piena di forum condotti da incompetenti comunisti rimasti ai tempi di Double Dragon, che non capiscono che questo nostro stupendo medium si sta evolvendo! Non credi che dovremmo appenderli tutti per le palle e lasciarli morire dissanguati dal naso? Sì, signore! Ti senti all'altezza della sfida? Sì, signore! Non mi sentire il tuo grido di guerra! Eccezionale, soldato a mano! Passiamo al prossimo! Ah, Cristo di un Dio, che cos'è questa creatura? Signore, questa creatura è il soldato Nemesis, signore! E perché sei così? Così come, signore? Come così come? Perché sei quello che sei? Qui abbiamo dei parametri igienici e sono sicuro che tu non ne rispetti neanche uno! Sei talmente abominevole che dovrei mandarti alla divisione psicoguerra! Ce l'hai uno specchio in casa? Signor, sì, signore! E allora ti vesti così apposta per essere diverso dagli altri? Signore, detesto che si subordini l'individuo al suo riflesso sociale, signore! Non ho capito che cazzo tu abbia detto, ma non suono molto comunista! Diciamo che per ora ti tengo nel plotone, ma stai allerta! E togliti quei cazzo di occhi bianchi, sembra che ti ci abbiano sborrato sopra! Di corsa, signorine, comincia l'allenamento delle 8! A Mario spariamo e sul cubo caghiamo! A Mario spariamo e sul cubo caghiamo! A Mario spariamo e sul cubo caghiamo! A Mario spariamo e sul cubo caghiamo!